io dico sempre che il manicomio non è un edificio, è un criterio, cioè la possibilità che c'è su una legge dello Stato, su un giudizio affrettato e arbitrario di internare le persone, e questo è il nocciolo del problema. Anzi, vorrei dire a questo proposito che bisognerebbe smetterla di parlare dei manicomi come si parlerebbe, non so, di un ospedale. Cioè un ospedale, per esempio, ci sono degli ospedali buoni dove si cura la tubercolosi, oppure ci sono degli ospedali buoni o non buoni dove si curano i tumori. Questo è un discorso logico, perché la tubercolosi si vede al microscopio, i tumori sono una malattia, malattia vuol dire un fatto biologico oggettivo. Invece il concetto che un altro è pazzo, basterebbe prendere il nostro Presidente del Consiglio, che ha detto che sono pazzi i magistrati, e poi ha detto che sono antropologicamente diversi quelli di sinistra, per cui chiunque può dare dei giudizi di carattere psicologico, con la differenza che lo psichiatra ha il potere con questa legge di non solo di dare il giudizio, ma anche di procedere a un internamento con la polizia. E poi quando uno è stato internato non è più quello di prima. Il fatto che il giudizio sia arbitrario non lo dico io, cioè è stato dimostrato, io lo misi nel mio primo libro, dall'esperimento di Rosenham, in cui alcuni decisero di presentarsi volontariamente in manicomi degli Stati Uniti, sia sulla costa atlantica che su quella pacifica, ed erano persone come psicologi, anche uno psichiatra, pittori, casalinghe, insomma, pediatri, si presentavano lì e venivano internati sempre, o quasi sempre, dicevano sento le voci, venivano internati come schizofrenici e poi dopo venivano dimessi con schizofrenia in remissione. Loro si erano presentati apposta per dimostrare che uno che finisce nelle mani dello psichiatra viene senz'altro classificato. E la classificazione poi non gli si stacca più da addosso. Per cui quando si parla di queste cose bisognerebbe dire che la psichiatria per tutti i cittadini, non per alcuni, è una minaccia alla libertà, perché qualunque cittadino, chiunque sia, può essere internato su parere di altri e dopo la sua vita non è più quella di prima, per cui è una minaccia alla libertà di tutti quanti, non c'entra nulla con i luoghi di cura dove si va quando si ha una malattia o l'altra, si può essere curati bene o male. Qui si tratta di campi di concentramento, come diceva lo stesso Basaglia, ha scritto anche un libro intitolato Crimini di pace, contrapponendo ai crimini di guerra che sono i campi di concentramento. Per cui, come dice Thomas Sacks, il trattamento psichiatrico, il controllo sociale spacciato come terapia psichiatrica è un illimitato potere per i tiranni, e infatti non ha nulla a che vedere con uno Stato di diritto, che un cittadino che non ha fatto niente, che magari dice delle cose che sembrano discutibili, non so, mi sento perseguitato dal KGB, oppure appunto sento la voce degli angeli o altre cose, che venga preso con la forza e portato dentro per modificare il suo pensiero. Questo è un attentato alla libertà e riguarda tutti noi. Io posso dirlo anche personalmente, nel senso che quando ero ragazzo, avevo 12 anni, camminavo per Firenze in bicicletta, mi fermò una guardia municipale che anche lei in bicicletta mi aveva raggiunto e mi disse che ero passato col rosso e poi ero scappato. Allora io gli dissi che lui aveva 50 anni, io 12, non ero scappato perché se volevo scappare non mi avrebbe certamente raggiunto. Lui si offese, mi portò in comune e volevano chiamare lo psichiatra e internarmi. Per fortuna telefonarono a mio padre, che era una persona importante in città perché era un funzionario delle industrie elettriche. Mio padre disse di lasciarmi, io fui lasciato, però se ero figlio di un proletario o un immigrato andavo in manicomio giudiziario, per cui tra andarci e non andarci non dipende dalle nostre facoltà, dipende dall'arbitrio degli altri. Questo va detto. Quando si parla contro la psichiatria non si difende un ristretto numero di persone, si difende tutti, perché tutti possiamo diventare pazienti psichiatrici, perché chiunque arbitrariamente, e anche gli psichiatri, possono dire che uno è malato di mente. La prova lampante nel giudizio sull'omosessualità che gli psichiatri americani hanno abolito ad alzata di mano, perché uno degli psichiatri aveva detto: ma ci sono tanti omosessuali anche tra di noi. Nonostante questo, proprio in questi giorni il vescovo di Pistoia, mi sembra, ha detto che gli omosessuali non possono fare la comunione, e lo psichiatra Francesco Bruno, che va sempre in televisione, ha detto che è inutile chiacchierare, la psichiatria ha ragione, l'omosessualità è una malattia di mente. E questa è una pura idiozia, ma è un'idiozia pericolosa, perché è chiaro che non si può fare un convegno sull'oncologia e poi ad alzata di mano dire che il tumore non è una malattia, perché è un fatto oggettivo. Invece si può, come fanno gli psichiatri americani, riunirsi e dire, per esempio, ora hanno inventato anche che le gambe inquiete sono una malattia di mente e altre sciocchezze, e noi si potrebbe soltanto ridere della loro mancanza di intelligenza, se non fosse che siamo minacciati, per cui c'è poco da ridere, anzi bisogna stare attenti. Uno studente di architettura che aveva fatto un progetto per una bella clinica psichiatrica, siccome i vecchi manicomi erano brutti, luridi, e lì invece lui aveva fatto un edificio moderno con grandi vetrate, corridoi, giardini, e Basaglia lo ascoltava e gli diceva: interessante questa soluzione, interessante quest'altra. Poi in fondo gli disse: però lei ha sbagliato indirizzo, lei viene da me a presentarmi una nuova clinica psichiatrica quando io sto lavorando perché non ci siano più le cliniche psichiatriche, per cui non ci abbiamo bisogno di nuovi architetti, ci abbiamo bisogno di altre cose, di un cambiamento di cultura, un cambiamento della società, un cambiamento radicale della società, è questo che noi cerchiamo di ottenere.